C'è! Sta qua! Se ti piglio! Se ti acciuffo! Se ti acceffo! Ti sconquasso! T'arrugginio come un candido quel ceppo! Guai a te! Prega il tuo santo! Fantasma le vite tante! Guai a te! Thank you.